Marcus non era meravigliato che non sapesse spiegare che cosa era successo. Aveva sentito più o meno tutta la discussione, non ne aveva capito una sola parola. Sembrava che da qualche parte mancasse qualcosa. Quando lui e sua mamma discutevano, si riusciva a cogliere l'importante. Troppo, troppo caro, troppo tardi, troppo piccolo, fa male ai denti, l'altro canale, compiti, frutta. Ma quando discutevano sua mamma e i suoi fidanzati, potevi stare ad ascoltare per ore senza riuscire comunque a cogliere il nocciolo, l'essenza, l'equivalente della frutta e dei compiti. Era come se gli fosse stato ordinato di litigare e loro saltassero fuori con la prima cosa che gli veniva in mente. «Aveva un'altra fidanzata? Non penso. Tu hai un altro fidanzato?» rise. «E chi sarebbe? Il tipo a cui abbiamo ordinato le pizze?» «No, Marcus, non ho un altro. Non è così che va, non quando sei una madre di 38 anni che lavora. È un problema di tempo, è un problema di tutto. Perché? Ti darebbe fastidio? Non so». Non sapeva davvero. Sua mamma era triste, questo lo sapeva. Adesso piangeva molto, più di quanto non facesse prima che si trasferissero a Londra, ma non sapeva se questo avesse qualcosa a che fare con gli uomini. In un certo senso sperava di sì, perché allora si sarebbe tutto sistemato. Avrebbe incontrato qualcuno e lui l'avrebbe fatta felice. Perché no? Sua mamma era carina, gli sembrava, e simpatica, qualche volta anche spiritosa, e dovevano esserci una marea di tipi come Roger in giro. Se non erano gli uomini, d'altronde, non sapeva che cosa potesse essere, a parte qualcosa di brutto. Questo era ancora l'incipit di Un ragazzo, di Nick Hornby. Yeah. First of all, dude, you don't have an accent. Secondly, this is a fucking show dog with fucking papers. You can't board it, it gets upset. Hey, its man. Hair falls out. Walter. Fucking no. Dog has fucking papers. Over the line! Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. On the dashboard and melted, but we still have the radio. Piace che abbia dei fidanzati? No, se non sono come Andrew. Beh, sì, lo so. Lo so che Andrew non ti piaceva, ma in generale non ti dà fastidio l'idea? No, certo che no. Te la sei sempre cavata bene, considerando che hai avuto due generi diversi di vita. Marcus capiva che cosa voleva dire. Il primo genere di vita era finito 4 anni prima, quando lui aveva 8 anni e sua mamma e suo papà si erano separati. Quello era il genere normale, noioso, con la scuola e le vacanze, i compiti e le visite dei nonni durante il weekend. Il secondo genere era più disordinato e con dentro più persone e più luoghi. I fidanzati di sua mamma e le fidanzate di suo papà, case diverse, Cambridge e Londra. Si fa fatica a credere che possano cambiare così tante cose solo perché un rapporto tra due persone finisce, ma a lui non importava. Qualche volta pensava anche di preferire il secondo genere di vita al primo. Succedevano più cose e questo non poteva che essere positivo. Questo era ancora l'incipit di Un ragazzo di Nick Hornby. Baby, let your light shine on me when I'm lost on the road. You know you could set me free. You could ease my load. Days get so dark that I can't hardly see. And I've been gone so long, it seems like home to me. Well, baby, when I was young of age, I took you for my world. The oceans were your eyes, the pastures were your curls, but now I'm all alone, stranded in the west. And where you sleep tonight, well, I can only guess. But baby, questa settimana si è inaugurato un nuovo modo di leggere gli incipit, lo avete sentito, per tutto il primo volume un unico libro, un unico incipit lungo quanto un volume di Eclettica. Questa settimana rendiamo omaggio a Nick Hornby in questo modo, non è che sarà tutte le settimane così, però di tanto in tanto capiterà. Appena ascoltati Two Gallants, prima ancora i Modest Mouse, ultimo pezzo di questo volume dedicato al profumo di Eclettica, ovvero sia al ripescaggio dalle vecchie playlist, dalle vecchie trasmissioni di Eclettica, nel caso specifico il 2001, anno di uscita di un bel disco da parte di una band norvegese di nome Madrugada. Black Mambo è il pezzo. Profumo di Eclettica. bones and a red hot poker burning in your ear. Think you had it, but you ain't nowhere near. Think you had it, but you know. Ground. Oh, Black Mambo, little chicken, better run, run, run. Don't let the children catch you. Don't let the children catch you. Gonna knock you down with liquor and Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 33, volume numero 1. Indice, David van der Velde, Fujia e Miyagi, Anson Furs, Jennifer Ever, Holden, Barr, Joyka, Holly Throsby, Modest Mouse, Two Gallants, Madrugada.